Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo salute di Nicoletta Carbone. Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca. Eccomi qua. Sì, parliamo di lei. È vero, non è proprio un argomento squisitamente da salotto, ma la cacca è importante. È una cartina di tornasole della nostra salute. Pensate addirittura che ha meritato una sua classificazione scientifica. In linea con noi oggi è tornata a trovarci la dottoressa Beatrice Salvioli, ricercatrice all'Università di Bologna e gastroenterologa presso il Centro Medico Visconti di Modrone di Milano. Dottoressa Salvioli, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta. È importante che la teniamo in giusta considerazione. Parliamo della nostra cacca. È vero che ha una classificazione proprio ad hoc, una classificazione scientifica, la famosa scala di Bristol. Esattamente. Allora, diciamo sì, l'argomento è non sempre piacevole, nel senso che non si può parlare a tavola quando si è a cena in situazioni conviviali, però è un qualcosa che ci accompagna quasi quotidianamente, per cui spesso anche gli amici mi chiedono: ma senti, ma se io ho notato questa forma, cosa vuol dire? C'è una connessione col benessere intestinale? La risposta è assolutamente sì, tanto appunto che, come giustamente ha detto lei, dal punto di vista scientifico è stata validata questa scala, che in inglese si chiama Bristol Stool Scale Form, che significa una scala che descrive la forma delle nostre feci, indicando il numero, e in particolare va dal numero 1, il tipo 1, al tipo 7, quindi ci sono 7 tipi di feci, di forma delle feci, che possono indicare il nostro stato di salute intestinale, in particolar modo il transito intestinale, vale a dire che se io tendenzialmente sono stitico e quindi le faccio, a presente Nicoletta, piccole a caprino, quelle forme dure, si parla dei primi 3 tipi, poi arriva il 4° tipo, che invece è la forma perfetta, quella forma che ognuno di noi vorrebbe avere perché indica uno svuotamento ottimale, mentre quando il transito dell'intestino è accelerato, vale a dire in forme per esempio di diarrea, in forme virali, in forme di stress, appunto, che può colpire il nostro intestino, e spesso chi ha sintomi di intestino irritabile ce l'ha, si parla del tipo dal 5 al 7. Quindi la perfezione è il 4. La perfezione secondo me è il 4, il 3-4. 3-4, stiamo lì. Stiamo lì. Dottoressa Salvioli, io ho detto la cartina tornasole del benessere, della salute del nostro intestino. Per questo dobbiamo vincere un po' quella timidezza, dobbiamo iniziare a parlarne con il nostro medico, soprattutto se il ritmo intestinale cambia. Esattamente, perché comunque dalla forma delle feci, dal colore e da eventuali tracce di sangue che si possono vedere, si può dare delle informazioni maggiori al nostro medico curante oppure allo specialista che si interpella, perché è chiaro che... Quindi cosa dice? Se il nostro medico curante magari non ce lo chiede, glielo diciamo noi? Senta, dottore, lei lo sa che io ho un bel 4, oppure avevo un bel 4 e invece adesso mi è diventato quasi un 2, e lui dirà: di che cosa sta parlando, signora? Ma io sto parlando della scala di Bristol. Esatto, bisognerebbe educare le persone a passare quella ritrosia che si ha nel voltarsi indietro e guardare il prodotto, diciamo, mettiamola così un po' in burla. Perché? Perché come si fa per i bambini? Perché noi ci dimentichiamo che quando i bambini piccoli la fanno, le mamme di solito la guardano, certo, e lì capiscono già tante cose, perché non dovremmo farlo noi adulti? Per cui nel momento in cui uno ha dei disturbi intestinali e guarda cosa produce, si può identificare se per esempio c'è ci sono dei pezzetti di cibo indigeriti, se c'è del muco, che è quella sostanza gelatinosa che spesso è espressione di un'infiammazione, se c'è addirittura sangue, come ho detto prima, perché il sangue può identificare una patologia emorroidaria che spesso è presente in, soprattutto in chi, in, nelle persone che, fanno una, che hanno un'attività sedentaria, passano tante ore in macchina, oppure dei sanguinamenti che derivano da un qualcosa che c'è nel colon. Allora a questo punto è meglio indagare, è meglio parlarne subito col medico curante, perché vi prescriverà una colonscopia. Per cui è veramente molto molto importante, perché dalla forma, dalla consistenza, dal colore delle feci il medico già riesce a indirizzare la persona verso determinati accertamenti. Insomma, si orienta, e lo so che magari molti di voi stanno facendo colazione e diranno: ma Lanico, che cosa è venuto in mente di rovinarmi la colazione parlando della cacca? Però ne parliamo, d'altra parte questo è un po' il suo momento. Al mattino l'intestino si risveglia. Esatto. Infatti proprio al mattino, specialmente dopo la prima colazione, partono nel nostro intestino queste onde giganti. Onde giganti vuol dire che il movimento intestinale è più importante rispetto ad altri momenti della giornata, e questo fa in modo che si abbia il trasporto del materiale fecale verso il basso, e di solito questi momenti sono pochi durante la giornata, se ne calcolano almeno 6 o 8 in tutto, specialmente vengono dopo i pasti. Quindi c'è anche una cronobiologia della... del movimento sì, diciamo così, peristalsi. E quindi questo è quando io dico cogliete l'attimo perché l'attimo è fuggente, vuol dire che bisogna approfittare dello stimolo dopo i pasti per andare a espletare la funzione. Perché cosa succede? Che quando uno invece reprime lo stimolo perché è in condizioni in cui non può farlo, per esempio molte persone sono timide, non vogliono avere questo tipo di bisogno intestinale quando sono in ufficio, quando sono fuori. Io dico sempre liberate le vostre inibizioni, perché il momento in cui tu perdi quell'attimo può essere che la trattieni fino al giorno dopo, e quindi lì c'è un altro problema. È un po' come il sonno, se perdi la finestra del sonno rischi poi di avere l'occhio sbarrato. Dottoressa Salvioli, è un problema di educazione e di cultura. Come si insegna ad un bambino a avere un buon rapporto anche con il vasino? Sì, allora nei bambini è fondamentale l'educazione da parte dei genitori, nel senso che bisognerebbe insegnare ai bambini di non avere paura di andare a scuola in bagno. Ovviamente le insegnerà soprattutto in questo momento storico di quanto è importante la pulizia, e quindi di pulire bene e semmai mettere la carta igienica sull'asse, di lavarsi bene dopo, di lavarsi le mani. Quindi già i bambini adesso hanno capito quanto sia importante la pulizia, l'igiene personale. Già questo è una delle poche cose positive, purtroppo, che però c'è successo in questo periodo, quindi certo, estrema igiene e non avere timore, perché al bambino cosa succede? Il bambino, se reprime lo stimolo, poi inizia a dimenticarsene, nel senso che va a giocare con gli amichetti, se la porta a casa, poi dopo deve fare i compiti, insomma non ci pensa. Ma il problema è vero che poi queste feci si induriscono nel bambino fanno male all'ano, quindi all'ultima parte dell'intestino, si possono formare queste piccole ragadi che sono delle ferite proprio a livello anale, e lì si crea questo circolo vizioso per cui più hai male, meno voglia di andare di corpo hai, perché sai che andando di corpo peggiora il dolore della ragade, e quindi si instaura questo circolo vizioso per cui appunto non vanno più di corpo. E quindi bisogna iniziare con dei lassativi, delle terettine, insomma è abbastanza importante questo problema. Per cui sottolineo molto l'educazione ai bambini, l'informazione che si dà del pericolo a trattenerla. Dottoressa Salvioli, a proposito di informazioni, ci sono tanti luoghi comuni, leggende metropolitane sulla alimentazione che favorisce una funzione intestinale regolare. Sì. Alcuni alimenti sono sono assolutamente suggeriti, su altri invece non c'è nessun dato. Ci vuole magari smascherare qualche bufala o darci qualche indicazione? C'è una dieta aiuta il nostro intestino a essere felice? Sì, è chiaro che la nostra dieta mediterranea funziona. È l'optimum che si possa avere. Perché? Perché bilancia bene la quota di fibre con i carboidrati e i grassi. Ora, molte persone che io vedo nell'ambulatorio sono persone che dicono: io mangio tantissime fibre ma non riesco ad andare, anzi le faccio caprine. E infatti io dico sempre, porto sempre l'esempio: ma le capre cosa mangiano? E loro mi rispondono: l'erba. Benissimo, bevono a sufficienza? No. Cosa vuol dire? Che le nostre fibre ingerite hanno bisogno di acqua, per cui se non si beve in maniera adeguata durante la giornata si rischia di fare l'effetto paradosso delle fibre. L'effetto capra. Senta, ma bere in maniera in modo regolare quanto significa? Vuol dire un bicchiere d'acqua naturale a temperatura ambiente, che la gente inorridisce quando sento, perché vorrebbero bere tutto ghiacciato, soprattutto d'estate, e gassato, ogni ora e mezza. Sarebbero 8 bicchieri, in genere 8 bicchieri al giorno, sono più o meno 1,5 litri, 2 litri. Al giorno sarebbe l'ideale. È chiaro che stiamo parlando di persone sane che non hanno problemi renali, certo. Che controindica ovviamente un sovraccarico idrico, o problemi cardiologici che anch'esso può controindicare. Per cui nei pazienti che hanno altre problematiche almeno 1 litro si consiglia. Dottoressa Salvioli, grazie per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata, le faremo grazie sapere. Mille. Grazie mille. E intanto noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.